DJ, street artist, danzatori, rapper. La prima linea delle manifestazioni di piazza è quasi sempre composta da loro. Oggi a Nessun Luogo, l'arte della protesta. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun Luogo, Nessun Luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Pour moi, c'est une révolution parce que elle a permis aux Algériens de récupérer ce qui leur a été interdit, c'est-à-dire la parole libre. لحقنا كثير بهال 25 يوم، قطعنا كثير اشواط، لغينا كثير ضرائب، ورح نعمل اكثر ان شاء الله. Welcome back to our place of work. Buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. Anche quest'oggi Nessun Luogo sarà lontano. Anche quest'oggi con me ci sono Antonio Tali, Ilaria Sesana, Giulia Cannizzaro, Valentina Ternullo e Valeria Bernardi in regia. Anche quest'oggi 349-238-6666, il numero da memorizzare per SMS e WhatsApp, per porre domande, per commentare il tema che vi propongo in questa puntata di Nessun Luogo Lontano. Buttate anche un occhio ai social perché posteremo dei link artistici. Oggi la domanda e il tema che vi sottoponiamo è questo. Ricorderete nelle settimane scorse come spesso abbiamo raccontato, trattato, analizzato quella serie incredibile di proteste che, quasi legate da un sottile filo rosso, hanno coinvolto da Hong Kong fino al Cile, passando per Iran, Iraq, Libano, il Maghreb. E avevamo notato e sottolineato come quel filo rosso fosse fondamentalmente la lotta contro vecchi regimi, la lotta contro la disparità sociale, la corruzione, il settarismo, il clientelismo. Quest'oggi vi proponiamo un nuovo filo rosso, che è quello più prettamente artistico. Che cos'è l'arte al tempo delle proteste contro i regimi? Un acceleratore oppure un semplice specchio? Un sostegno oppure una causa? E ancora una volta, quelle piazze, quelle grandi manifestazioni, ripeto, dall'Iran al Libano, al Cile, senza il sostegno di artisti, di rapper, di colonne sonore, sarebbero state forti ugualmente? Oggi cercheremo appunto di analizzare questo aspetto, perché da sempre l'arte è stato un grandissimo veicolo e strumento di propaganda. I regimi, quando sanno bene addomesticare intellettuali e artisti, utilizzano questa formidabile leva per rimanere al potere. Quando invece ce l'hanno di fronte, di solito ne hanno una grande paura. Anche quest'oggi, prima di analizzare questo tema, la prima cosa che faremo è misurare la temperatura. Il primo dossier che vi sottopongo e sul quale continuiamo a tenere desta l'attenzione riguarda l'India. Ve ne davamo già conto nella puntata di ieri. A Nuova Delhi si stanno svolgendo i più violenti scontri religiosi mai visti nella capitale indiana da oltre, pensate, 20 anni. Secondo gli ultimi bilanci, da domenica a oggi nelle violenze sono morte 21 persone e oltre 200 sono rimaste ferite. Ricorderete che ieri vi dicevamo della visita di Donald Trump, che è stata in qualche modo non tanto l'innesco delle nuove proteste, ma sicuramente ha consentito una ribalta più internazionale a chi manifesta contro quel nuovo decreto sulla cittadinanza, che sostanzialmente, secondo i detrattori e larga parte della popolazione musulmana indiana, è un ennesimo colpo induista a quella che è la laicità invece della Costituzione indiana. Secondo infatti chi va a manifestare, il prepotente nazionalismo indù di Narendra Modi vorrebbe aggirare la carta costituzionale indiana e trasformare a tutti gli effetti l'induismo nella religione di Stato. La scintilla, a proposito invece di scintille, che ha scatenato le ultimissime violenze è stata domenica, quando un parlamentare e ministro delle risorse idriche eletto tra le fila del BJP, che è il partito ultranazionalista di Narendra Modi, Kapil Mishra, ha incitato i giovani del partito a eseguire una sorta di sgombero forzato di un'area pubblica dove alcuni musulmani, appunto cittadini musulmani indiani, stavano manifestando contro la legge. Da lì è nato un parapiglia e poi violenze a tutti gli effetti, con morti e feriti e scene incredibili che non si vedevano da tempo sui tetti di Delhi, con alcuni cittadini costretti a scappare saltando appunto da un tetto all'altro. Arrivano già i primi messaggi al 349-238-6666 e vedo già dal tenore che la discussione di oggi sarà intensa e sarà anche credo virtuosa, perché vedo già citare appunto alcuni street artist. Ci andremo tra pochissimo, abbiate pazienza perché c'è un'altra notizia che voglio sottoporvi in questo termometro, ed è quello che è accaduto ieri negli Stati Uniti, in particolare a Charleston, South Carolina, il decimo dibattito televisivo tra i candidati alle primarie dei democratici. Vi dico l'ultima parte di questa storia, cioè il finale, che è stato un tweet provocatorio ma anche molto efficace di Donald Trump, che alla fine del dibattito televisivo ha detto: cari democratici, datemi uno sfidante. Questo per dire cosa? Che ieri, nonostante le prodezze del passato di Bernie Sanders in televisione, della Warren soprattutto, il fuoco di fila contro il vecchio comunista degli Stati Uniti, come qualcuno lo chiama, ieri, dicevo, sembra che nessuno abbia riportato una vittoria netta nel dibattito televisivo democratico. A questo punto qualche analista potrebbe dire: beh, stanno tenendo un profilo più basso, si scaldano i muscoli, riservano le energie per il 3 marzo. Il Super Tuesday, lì si vota in 14 stati, Sanders è ancora favorito. Interessante, a livello del racconto, della narrativa sui social, sta andando molto molto forte un hashtag: I'll vote blue no matter who, cioè voterò democratico non importa chi sia il candidato, sostenendo sostanzialmente con questa campagna e questo hashtag che le politiche socialiste di Sanders dissuaderanno molti elettori in bilico, garantendo così la vittoria di Trump. Tantissimi di voi, gentili ascoltatori e ascoltatrici, avete da più parti sottolineato come la candidatura di Sanders diventerebbe un vero e proprio boomerang per i democratici e un regalo a Donald Trump. Detto ciò, vi ricordo che non facciamo ascoltare i messaggi audio che arrivano qui a WhatsApp, quindi come vi dicevo ieri vi prego invece di scrivere al 349-238-6666, SMS WhatsApp, ma anche Facebook, Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, Twitter, Nessun Luogo 24, ovvero il mio account che è Giampaz. Adesso la prima cosa da fare è andare a Beirut, in Libano, con questa musica. Quello che avete sentito erano la musica suonata da DJ Madik, che è un DJ libanese molto molto apprezzato. E direte voi: cosa c'entra un DJ con le proteste di piazza libanese? Il primo tassello di questa storia, il primo capitolo di un lungo racconto che ci porterà a viaggiare tra vari continenti per cercare di capire come l'arte, che sia visiva, che sia sonora, possa essere un formidabile acceleratore di quelle rivolte, di quelle manifestazioni contro i regimi. DJ Madik, dicevo, ha animato la piazza libanese per settimane, in sostanza un collante per i libanesi, per tenere alto l'umore, in buona sostanza la colonna sonora delle piazze e delle persone che sono scese in Libano. Proprio tra quelle persone vi porto immediatamente, lo facciamo con Luca Steinman, giornalista freelance in diretta da Beirut, sta proprio seguendo le manifestazioni. Luca, buongiorno e benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a tutti, spero mi sentiate forte e chiaro. Ti sentiamo forte e chiaro, così come forte e chiaro abbiamo sentito una delle colonne sonore di DJ Madik di queste lunghe, ormai lo diciamo, durano da mesi le proteste a Beirut. Nel mirino dei manifestanti c'è la corruzione, c'è il settarismo, il clientelismo, la disparità sociale, da ultimo gli appelli allarmati della Banca Mondiale, l'economia libanese sarebbe a un passo dal precipizio. Luca, la prima domanda riguarda proprio la composizione sociale di chi manifesta. All'inizio era una protesta molto transconfessionale, no? Cioè c'erano un po' tutti, sunniti, sciiti, cristiani, non ci si chiedeva nemmeno come ci si chiama, per evitare che dal nome si evincesse la fede. Quell'anima così ecumenica è ancora stata rispettata o in qualche modo è stata inquinata ultimamente? No, io sono stato proprio ieri a dei sit-in dei manifestanti e possiamo dire che quell'anima sia ancora forte, chiara e presente tra tutti. La grande differenza che c'è rispetto a prima è un minor numero di manifestanti, ma perché in questi casi è spesso così, c'è un picco iniziale di grande coinvolgimento popolare che poi si riduce andando avanti col tempo. Sì. Ecco, però io sto notando un'atmosfera continua di protesta in tutto il Libano, ci sono continuamente comunque dei sit-in, delle manifestazioni su base più piccola, ma che sono pronte a riesplodere in grandi proteste qualora vi fossero delle nuove necessità. E sì, ricordiamoci, e questa è una notizia fresca che potrebbe portare grandi problemi, che lo Stato libanese ha annunciato di avere difficoltà a pagare, a poter pagare gli stipendi pubblici a partire da tra 3 mesi. Quindi ecco, se lo Stato non riuscirà a pagare gli stipendi, dobbiamo aspettarci che le piazze continuino a riempirsi. Sì, la voce che sentite, il commento in diretta da Beirut di Luca Steinmann, giornalista freelance, esperto di Medio Oriente, tra poco peraltro si muoverà in un altro settore, in un altro quadrante, però per adesso sta lavorando sui manifestanti. In particolare vi facciamo sentire la voce di una delle voci, perdonate la ripetizione, della piazza libanese. Luca l'ha sentita da pochissimo, lei è Linda Boulous, leader delle manifestazioni in passato, già stata in prigione, già arrestata. Sentite in qualche modo la sua carta d'identità e poi una storia particolare, perché lei, fra le varie fedi che animano la religiosità libanese, è appunto cristiana. Sentite. My name is Linda Boulous Makeri and I'm one of the revolutionists in the Lebanese revolution. Mi chiamo Linda Boulous e sono una dei manifestanti. Questa rivoluzione mi rende molto felice perché non è solamente un vento di cambiamento economico, ma anche spirituale. Io sono cristiana, sono cresciuta in un ambiente che mi ha spaventata fin da quando sono nata, dicendo che tutti attorno a me volevano uccidermi e volevano uccidere tutti i cristiani. Abbiamo vissuto tutta la nostra vita sulla difensiva e avevamo paura di tutti quelli attorno a noi. Il 17 ottobre c'è stato un risveglio collettivo. Siamo andati in quest'area abitata da musulmani che prima ci faceva paura. Quando abbiamo scoperto che i nostri vicini musulmani, i nostri fratelli, ci volevano bene e che volevano preservare la nostra esistenza in Libano, siamo rimasti scioccati. Questo mi ha fatto sentire molto meglio nel mio stesso paese. Per anni e anni i partiti cristiani libanesi hanno detto di essere gli unici a proteggere l'esistenza dei cristiani. Ma non è vero, perché negli ultimi 30 anni il numero di cristiani in Libano è calato drasticamente. Ma oggi i miei fratelli musulmani mi dicono che saranno loro a proteggermi se qualcuno proverà a farmi del male. I miei fratelli musulmani mi dicono: sei libanese quanto me e ti voglio bene. Io ricambio questo sentimento e ci proteggeremo a vicenda. E questa sarà una protezione vera per l'esistenza delle minoranze e delle maggioranze in Libano. For the existence of minorities and majorities in Lebanon, not alive. La voce di Linda Boulous, una delle leader di queste manifestazioni, già in passato era stata arrestata, che ci ha restituito un quadro decisamente ecumenico. Era uno dei punti di domanda che porgevamo a Luca Steinmann, lo ricordo, il giornalista freelance in diretta da Beirut, che per alcuni giorni ha seguito le diverse anime appunto di questa piazza libanese. Luca, ci dicevi che in qualche modo il governo libanese, l'amministrazione nel suo complesso, ha quasi 3 mesi, no? È come se ci fosse una data di scadenza. Quanto è in grado la politica libanese di rispondere a queste istanze? E nel caso, hai odore, sentore di un aiuto chiesto all'estero, all'esterno, per supportare quella che è una crisi che in questo momento è soprattutto finanziaria, perché mancano i soldi, c'è un'inflazione altissima? Sì, allora, questa è la questione principale che riguarda sempre il Libano. Il Libano è diviso in diversi gruppi confessionali, ognuno dei quali legato più o meno indirettamente a uno stato straniero. Quindi sappiamo bene gli sciiti all'Iran, l'Arabia Saudita, quindi inevitabilmente la questione del soggetto internazionale da cui farsi proteggere è centrale. Ed è proprio questo che chiedono le piazze. Noi non vogliamo essere legati a nessuno, non vogliamo che intervenga l'Iran, l'Arabia Saudita o intervengano gli Stati Uniti per risolvere il nostro problema, ma vogliamo essere considerati come cittadini libanesi, quindi vogliamo riprenderci la nostra sovranità e fondare una classe politica nuova che sia svincolata da ogni tipo di contatto con l'estero. Chiarissimo. La cosa è facile da dirsi, certo, ma molto difficile da farsi, certo, perché esiste una storia ormai stratificata di interventi, di ingerenze straniere, proprio come hai ben sottolineato. Luca Steinmann, lo ricordo, da Beirut, giornalista freelance, esperto di Medio Oriente. Luca, c'è un altro aspetto che noi in questa puntata stiamo toccando, che è il ruolo dell'arte, intesa nella sua accezione più ampia, dal DJ che abbiamo fatto sentire al visual artist, quindi il graffitaro, i muri. Peraltro al Beirut ci sono anche delle storie molto interessanti. Quanto sta entrando la protesta artistica, diciamo, nelle manifestazioni libanesi? Allora, diciamo che visto che le grandi manifestazioni si sono spente, per i manifestanti e per gli organizzatori è necessario tenere calda la piazza con iniziative che non siano direttamente legate alla dimensione politica. E qui entrano in gioco l'arte, la cultura, il cinema, il teatro, che avranno ad assumere quindi un ruolo avanguardistico e un ruolo politico. E proprio l'arte o l'attacco all'arte è stato recentemente oggetto di una diatriba politica. Alcuni contromanifestanti legati, si dice direttamente o indirettamente, a Hezbollah sono entrati in una piazza, in una piazza centrale del Libano, e hanno distrutto alcune tende dei manifestanti. Ebbene, i manifestanti con queste tende hanno raccolto il materiale che ne rimaneva e hanno, ne hanno fatto una statua fatta in plastica che rappresenta una fenice. E ricordiamoci che il Libano è stato fondato dai fenici, che storicamente è un paese fenicio. E la fenice rappresenta anche l'animale che dalle proprie ceneri risorge. Quindi, di fronte a questi scontri tra diverse confessioni e scontri politici, i manifestanti hanno voluto utilizzare l'arte per mostrare non soltanto di rimanere, ma di voler continuare a mandare avanti questa rivoluzione. Chiarissimo, quasi un'operazione storica e filologica sulle origini del Libano, affiancata a un fortissimo simbolismo che faceva di necessità virtù, perché poi una tenda strappata via a forza da una delle anime Hezbollah, in particolare la milizia e il partito politico sciita, che appunto abbatte una parte dei manifestanti, insomma, questi se ne fanno una ragione e l'arte aiuta. Grazie mille, Luca Steinman, lo ricordo, giornalista freelance. Buona giornata e buon lavoro, Luca, e buon viaggio soprattutto. Grazie, a presto. Vi faccio sentire anche la voce di Fouad Abu Nader, è l'ex presidente delle forze libanesi, unico politico di punta, secondo quanto ci raccontava qualche giorno fa lo stesso Luca Steinman, che appunto ha raccolto la sua voce, che è accettato di buon grado proprio dalle piazze libanesi, dalle proteste. È utile ricordare perché ci stiamo occupando di Libano, perché è il grande termometro di tutto il Medio Oriente, è il paese in cui si concentrano interessi, da cui si dipanano aggressività e volontà egemoniche sul resto del Medio Oriente. Un Libano che è un passo dal tracollo finanziario, un Libano che ha una vita culturale intensissima, è un Libano dal quale siamo partiti per raccontarvi come l'arte può diventare la vera e propria front line contro i regimi. Tanti messaggi che stanno arrivando al 349-238-6666. Fra poco ve ne darò conto. Fatemi tornare però alla voce di Fouad Abu Nader, perché queste piazze in sostanza stanno facendo anche qualcosa di diverso. Non è solo l'antagonismo col potere, col regime, con la corruzione, è anche la creazione di che cosa? Beh, di qualcosa di nuovo, sentite. Questa rivoluzione in Libano ha creato una nuova mentalità e questa nuova mentalità porterà alla creazione di un nuovo Libano. Il Libano che noi vogliamo è un paese libero dalle divisioni settarie del passato. Noi vogliamo cittadini libanesi, non cittadini musulmani, sciiti o cristiani. Stiamo lavorando per scrivere una legge che tutti i cittadini devono rispettare. Vogliamo nuove elezioni, elezioni anticipate, in modo da portare al potere nuovi deputati che realizzeranno quello che stiamo chiedendo. Un nuovo Libano per tutti. Questo l'ottimismo e la proiezione nel futuro di Fouad Abu Nader, ex presidente delle forze libanesi. La voce invece degli ascoltatori, interessante, John, che ci scrive da Caracas e dice: gli artisti purtroppo sono quasi sempre manipolabili, quindi di parte, per cui non hanno molta credibilità. Questo è il primo punto di vista che vi propongo. Un altro ascoltatore, Mabansky, è una street art di protesta o di provocazione? La street art ha mai cambiato in meglio la vita economica o sociale di un paese? Finora sembra che sia stato solo un catalizzatore di scontri. Proprio questa è una delle domande che ci porremo. Peraltro Mabansky ormai è super conosciuto, come dire, mentre oggi vi proporrò storie di artisti molto molto meno conosciuti. Poi c'è qualcun altro che torna sulla situazione politica del Libano, chiedendo per esempio: conviene anche a Israele avere un Libano così debole? Io aggiusterei il tiro della domanda, se mi permette, gentile ascoltatore, e direi piuttosto: converrebbe a Israele avere un Hezbollah debole? Al momento non lo è affatto. Diciamo che a Hezbollah può convenire avere un Libano debole e sostituirsi col suo stato parasociale, col suo assistenzialismo e le sue milizie, così preparate e pericolose appunto invece a un esercito libanese. Detto ciò, vi dicevo, casi di arte che si impegna, che va in prima linea, che a volte fa riempire degli spazi di protesta, messaggi politici per combattere contro i regimi o comunque contro i governi in carica. Abbiamo raggiunto Iman Assaf, che è la direttrice di Art of Change, è un'organizzazione di Beirut che sostiene artisti di strada impegnati nella rivoluzione. A lei abbiamo chiesto come l'arte possa contribuire alle tematiche politiche, quindi al dialogo politico, sia in Libano che a livello internazionale. Abbiamo visto la prova nel contesto della rivoluzione. Abbiamo artisti che vengono da Parigi, dall'Italia, da Londra e con il loro duro lavoro riescono a capire quello che noi stiamo attraversando. L'arte è un linguaggio internazionale. Non c'è bisogno di conoscere le parole di una lingua straniera. Si capisce l'opera d'arte e si diffonde il messaggio fra le persone attraverso l'arte. Molte persone ci scrivono dicendo che attraverso l'arte stanno capendo quello che succede qui, sul terreno. Un esempio di artista libanese che con i suoi lavori ha avuto un impatto politico e sociale è Rola Abdo. Sapete che le autorità stanno piazzando barriere di cemento per impedire alla gente di entrare nella piazza del Parlamento e Rola è una delle artiste che hanno denunciato questo provvedimento. Rola ha anche dipinto un bambino affamato a causa della corruzione e ha realizzato delle opere sulla corrente elettrica per chiedere alle compagnie che la corrente venga finalmente erogata 24 ore su 24. Il suo lavoro si è fatto conoscere a livello internazionale come altri, naturalmente, ma il suo lavoro ha avuto un impatto fondamentale a livello mondiale. Il racconto tra arte e politica in questa puntata di Nessun Luogo in Lontano, quanto possa essere una formidabile leva di ingaggio? Beh, se andiamo a situazioni un po' meno estreme, quindi non in cui c'è un antagonismo verso il regime, vi abbiamo raccontato nelle scorse puntate degli endorsement di artisti, attori di Hollywood o cantanti e musicisti proprio per le primarie americane, e quindi vediamo che inevitabilmente l'arte nel suo complesso sia una leva, un'arma politica. Certo, in alcuni contesti, in alcune situazioni come il Medio Oriente, ma anche il Cile, ma anche Hong Kong, l'arte che subisce una repressione da parte del regime riesce evidentemente, quando può esprimersi, a scatenare effetti forse ancora maggiori. Vi ho fatto sentire la voce di Iman Assaf, che dirige l'Art of Change, questa organizzazione di Beirut che in sostanza utilizza quelle barriere di cemento che dovrebbe essere ostacolo all'espressione, a sua volta come mezzo di espressione. Facciamo una piccolissima pausa, lasciamo Beirut, andiamo a sentire la borsa e tra pochissimo vi porto in Algeria. Nessun luogo è lontano. La musica, i graffiti, i murales, ma anche il rap, le rime contro il regime, quell'arte, quelle colonne sonore, quelle espressioni che fanno vibrare le piazze, che le spingono avanti contro governi corrotti, contro regimi o semplicemente per cambiamenti politici. In alcuni quadranti del mondo la situazione è piuttosto evidente, in alcuni quadranti del mondo quelle piazze che sono fatte vibrare dall'arte, allo stesso tempo quell'arte stessa fa tremare anche i regimi. Così un ascoltatore a Pinochet faceva più paura a Viktor Jara dell'Unione Sovietica, infatti prima di ammazzarlo gli mozzarono le mani. Così Manfredo, qualcuno scrive: Banksy non è né di protesta né di rivoluzione né di governo, Banksy è solo leggero. Qualcun altro: commento cinico, più che superare le barriere linguistiche il grande vantaggio dell'arte è che veicola il messaggio con un colpo d'occhio, requisito fondamentale per una platea occidentale sempre più distratta e poco portata ad approfondire. Questi vostri commenti al 349-238-6666. Proseguiamo il viaggio. Valeria Bernardi, portaci ad Algeri. Il messaggio di questa video è di mettere in valore la ville media, perché la ville media è conosciuta da La voce che sentite è quella di Abdel Jadil Fassi, è un artista algerino e soprattutto un ballerino, ma lui si definisce performer a tutto tondo. In questo video che trovate sul suo canale Instagram, ma tra poco posteremo una foto che ci ha incuriosito, parla del distretto calzaturiero di Meda e invita i giovani a fare anche i calzolai, quindi un artista che sostanzialmente si impegna anche su quello che è un settore lavorativo, pensate, in Algeria, ma come in tanti altri paesi, che sta scomparendo. Non solo, Abdel Jadil Fassi è stato anche uno dei manifestanti che sono scesi in piazza da oltre un anno e quattro giorni per essere sicuri, perché per essere certi, perché il 22 febbraio dell'anno scorso si è mosso quel movimento chiamato Iraq, che ha fatto cadere niente meno che il presidente algerino Bouteflika. Movimento pacifico, movimento che ha fatto dell'arte una delle sue più formidabili armi di espressione. Sentite Abdelaziz Fassid come racconta e che cosa pensa di questo movimento Iraq. È cominciato il 22 febbraio e quindi è un anno e qualche giorno che esiste. Il movimento nasce per cambiare tutto il sistema. Abbiamo assistito a folle di gente con le bandiere nelle strade, dopo aver vissuto tante cose durante gli ultimi anni di governo di Bouteflika. Era difficile vivere in un paese che nemmeno conosceva il suo presidente perché non lo si vedeva. Così il popolo algerino ha detto no a questo e sì al cambiamento per le prossime generazioni. La voce, il commento di Abdel Jadil Fassi, artista algerino e soprattutto ballerino, che in qualche modo risponde a una sollecitazione di un ascoltatore molto interessante, arrivata al 349-238-6666. Secondo voi è più potente il messaggio lanciato dalla street art oppure un post lanciato in un social network? Di che cosa hanno più paura i dittatori? Beh, se pensiamo alle primavere arabe, i social network hanno giocato un ruolo molto molto importante, così come nelle recenti proteste in tanti paesi. Pensate come è stata buttata giù internet in Kashmir, come è stata fatta la stessa cosa in Iran. Ecco, l'artista algerino di cui vi sto facendo sentire la voce e il commento ha unito le due cose, perché fa delle performance ma poi le posta per esempio sul suo canale Instagram. Qual è il ruolo dell'arte secondo lui? Sentite. L'arte è, non posso dire l'unico modo, ma di sicuro uno dei mezzi più potenti di espressione ed efficaci per fare passare un messaggio. Le manifestazioni di ogni venerdì hanno visto l'arte come protagonista e capace di far passare il messaggio anche a livello internazionale in modo forte. Ci sono tanti artisti, cantanti, attori, commediografi, artisti imprigionati perché hanno manifestato contro il governo. È stata dura, ma gli artisti hanno cercato di far passare il messaggio a tutte le categorie sociali e a tutta la popolazione. Noi siamo artisti, ma siamo anche parte del popolo. La voce di Abdel Jadil Fassi, artista algerino piuttosto attivo sui social. Intanto mi correggo se ho detto Banksy e non Banksy, mi correggo, è stato un lapsus. Vi dicevo di questa foto su Instagram lanciata da questo giovane, che è una foto particolare. Adesso la rilanciamo sui nostri canali social Facebook, Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24. È un autoritratto in cui il giovane si è fatto tatuare, in qualche modo disegnare, dipingere a petto nudo una bandiera algerina che però è grondante di sangue e lui sembra quasi chiuso tra mura, come se fosse una prigione. Sentite che significato ha secondo lui. Questa foto è venuta da un progetto. Questa foto fa parte di un progetto che si chiama L'Inferno di Dante. L'Algeria nel periodo di Bouteflika era come un inferno. Quindi ho rappresentato un giovane nudo, nato in Algeria, con un governo che costringe il giovane a seguirlo e a essere cieco. Ed è per questo che nella foto si vede la bandiera algerina tatuata sulla pelle, ma sanguinante. Tu sei un algerino e tu ne segui a notre façon. Adbel Jalil Fassi ha fatto parte di questo momento Iraq che ancora continua. Proviamo a mettere il grand'angolo, vi abbiamo raccontato una storia, adesso proviamo ad analizzarla con la voce di Isabel Werenfeld, che è ricercatrice presso il German Institute for International and Security Affairs. La ricercatrice si focalizza in particolare sui paesi del Maghreb. La storia algerina è importantissima, una storia recente sanguinaria, un benefico braccio di ferro con la Francia, e qualche ascoltatore ricorda al 349-238-6666 gli interessi francesi, ma è utile anche ricordare quello che è il filo rosso che lega l'Italia per esempio all'Algeria, è il nostro secondo fornitore di gas dopo la Russia per esempio, ospita oltre 80 aziende italiane. Così, per prevenire la domanda, magari qualcuno si starà facendo: ma che mi importa dell'Algeria? Ecco, e così abbiamo archiviato il dossier. Detto ciò, vi dicevo, vi faccio sentire la voce di Isabel Werenfeld, perché questo movimento Iraq per oltre un anno ha tenuto le piazze algerine in maniera pacifica, fino a far cadere uno dei grandi presidenti autocrati di un paese africano. Come mai non è mai stato fermato in maniera violenta dalle autorità? Sentite. I think the Algerian regime has learned its lessons from the past. Penso che il regime algerino abbia imparato questa lezione dal proprio passato e da quello che è successo in altri paesi. Gli algerini hanno protestato spesso negli ultimi decenni e il governo raramente è intervenuto in maniera repressiva. Penso che questa volta entrambe le parti abbiano capito quanto questo possa essere pericoloso. Il movimento Iraq è stato assolutamente pacifico e non ci sono state provocazioni da parte dei manifestanti. Gli attivisti hanno cercato di non dare al governo il minimo protesto per intervenire. Al tempo stesso, le forze di sicurezza erano estremamente preoccupate da una possibile escalation. E questo ha a che fare con il trauma della guerra civile degli anni 90. Penso che gli algerini siano profondamente traumatizzati da quella violenza. Entrambe le parti sono estremamente determinate a non ricadere nella trappola della violenza, anche se le condizioni sono molto diverse rispetto al passato. Protesters were very aware of it and security forces. Come fa l'arte e l'espressione artistica in generale a intrecciarsi con la grande attualità internazionale? Facile, basta scendere in piazza, basta manifestare, e lì osserveremo che la prima linea e le istanze in maniera più creativa vengono sottoposte ai regimi proprio da artisti, da rapper, da cantanti, da attori, da musicisti, da ultimo un ballerino algerino che per mesi ha fatto parte di quel gigantesco movimento di protesta. Piccola aggiunta a quello che ha detto la ricercatrice del German Institute for International and Security Affairs, la Werenfeld. L'Algeria in questo momento sta vivendo anche una situazione molto delicata, A dal punto di vista economico, B l'avanzata del generale Haftar sta preoccupando e non poco sia la Tunisia che l'Algeria, e quindi la situazione libica è, come dire, legata a doppio filo anche a quella di tutto il Maghreb. Detto ciò, come si fa a trasformare le istanze della piazza? Come fa il regime a raccoglierle? Non è che è sufficiente far deporre il presidente Bouteflika per cambiare immediatamente l'immagine e le dinamiche di un paese. Il problema è che il governo e questo movimento di protesta che da oltre un anno scende in piazza non solo Algeri ma nelle principali città, sostanzialmente non si parlano. Com'è possibile un cambiamento? Sentite ancora Isabel Werenfeld. Uno dei problemi sta nel fatto che il movimento Iraq non è strutturato né organizzato. Questo è dovuto in parte alla paura che i membri dello zoccolo duro del movimento possano essere arrestati oppure cooptati, che ci possano essere dei tentativi di cooptazione da parte del governo. C'è molta sfiducia da parte del movimento Iraq e in questo momento, da parte del governo, ci sono molte offerte verso gli esponenti del movimento, magari non i principali, ma alcune persone nel retrovie sono state cooptate nel governo. Oggi ci sono diverse figure all'interno del governo che non sono direttamente collegate all'Iraq, ma che hanno simpatia per il movimento. Penso sia questo il modo in cui il governo sta cercando di procedere. Offre riforme, spera di indebolire il movimento e di spezzarlo, ad esempio sfruttando le animosità tra i berberi e gli arabi. Il governo spera che il movimento si indebolisca e che le persone che oggi ne fanno parte diano al governo il beneficio del dubbio in materia di riforme. Tuttavia, quello che abbiamo visto fino ad ora in materia di riforme è soprattutto retorica. Adesso la questione è: ci saranno delle vere riforme? Penso che solo se riuscirà ad offrire vere riforme, il governo riuscirà a indebolire l'Iraq. They will manage to weaken the Iraq. La voce di Isabella Werenfell. Adesso facciamo una piccola pausa. Andiamo a sentire come vanno le strade e poi l'ultima pagina di Nessun Luogo. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori, in questa puntata di Nessun Luogo è Lontano, quando l'arte diventa protesta, o meglio, l'arte della protesta. Insomma, ci chiediamo qual è il ruolo di artisti, di cantanti, di attori, pittori e chi più ne ha più ne metta in quella serie lunghissima di manifestazioni di piazza che hanno animato gli ultimi mesi della grande attualità internazionale, da Hong Kong, passando per l'America Latina, Iran, Iraq, il Kashmir, l'India ultimamente, il Maghreb, il Libano. In tutti quasi questi quadranti abbiamo scoperto che un ruolo importante lo stanno svolgendo gli artisti, un po' come avanguardia, un po' artisti più famosi forse hanno trovato un palcoscenico nel quale prodursi ed esibirsi. 349-238-6666 per i vostri commenti, le vostre domande. Mi trovo interessante la domanda e la provocazione di un ascoltatore che dice ma se l'arte è così potente, come mai non riesce a ribaltare, per esempio, Kim Jong-un? È possibile che il paese sia così impermeabile con il resto del mondo? E poco prima lo stesso ascoltatore, pensando alle rivolte di Hong Kong, mi chiedevo se ci fosse un'immagine o una colonna sonora come simbolo di richiesta di liberazione dall'oppressione cinese. Beh, forse la colonna sonora era proprio quella tratta dai Miserabili. Peraltro, in una puntata in Nessun Luogo Lontano vi facemmo sentire la piazza di Hong Kong che la cantava. E poi interessante che a volte l'iconografia, le immagini delle proteste vengono create dalla piazza stessa, quasi inconsapevolmente. Quando ospitammo un nostro collega, il fotoreporter Nicola Longobardi, che ha fatto un lungo lavoro sull'iconografia dei manifestanti di Hong Kong e ha pubblicato in tantissimi giornali internazionali questi ritratti in cui i manifestanti vestivano le maschere antigas, molto spesso vestiti di nero, aveva egli stesso creato in qualche modo un'iconografia, un simbolo che immediatamente, plasticamente andava a definire la protesta di Hong Kong, perché si sa, l'arte alla fine è un processo molto fluido che può scaturire anche dalla protesta stessa. Allora, 349-238-6666 per voi. Allora, proviamo a chiudere il cerchio, proviamo a rispondere a un po' di domande che ci siamo fatti a inizio di questa trasmissione. L'arte in prima linea è un acceleratore delle proteste, un'arma o un semplice specchio di ciò che accade? Mi soccorre in questa analisi Francesca Recchia, dirige l'Istituto Afghano per l'Arte e l'Architettura, uno dei fondatori di The Police Project. Buttate l'occhio www.thepoliceproject.com perché troverete qualche tema, diciamo, attinente alla puntata di quest'oggi. Francesca, buongiorno, ben ritrovata a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno. Allora, sei esperta, fra l'altro, visto che dirigi un museo in una zona particolarmente delicata, proprio di arte in zone di conflitto. Proviamo a mettere un primo puntello. L'arte rispecchia la piazza o la accelera? In qualche modo diventa strumento nelle mani dei manifestanti o semplicemente la racconta? Well, secondo me non è un processo di esclusione, nel senso che credo che l'arte faccia un po' tutte queste cose, ma anche per rispondere all'ascoltatore che si diceva prima, non è l'arte che ha il compito di rovesciare i governi, l'arte fa un'altra cosa. In qualche modo, in molte proteste in giro per il mondo, i cittadini che sono artisti partecipano alle proteste con quello che sanno fare, cioè con i loro disegni, con i loro graffiti, con la loro musica. Quindi diciamo che c'è una partecipazione molto civica degli artisti nelle proteste, ma c'è anche una sorta di ispirazione più o meno cinica rispetto a quello che succede, no? Si raccolgono temi e si trasformano attivamente in termini musicali e poi se ne fa potenzialmente altro. Sì. Oppure si lavora dal di dentro con slogan o graffiti o serate di musica come parte attiva del movimento di protesta. Francesca Recchia, l'avete sentita, la sua voce, dirige l'Istituto Afghano per l'Arte e l'Architettura. È una dei fondatori di The Police Project, è un progetto indipendente che miscela giornalismo e ricerca accademica. Con Francesca proviamo a tirare le somme di questa puntata in Nessun Luogo Lontano, che ha percorso molti chilometri e in qualche modo si è messa in prima linea, no? Assieme agli slogan, ai cori dei manifestanti. Ma nell'ultima parte di questa trasmissione è interessante perché il mio spunto, mi riferivo a Nicola Longobardi, è stato raccolto da alcuni ascoltatori e stiamo viaggiando verso quella che è l'arte spontanea, o quantomeno l'iconografia spontanea. E giustamente un ascoltatore scrive: l'iconografia spontanea più potente è stata la cosiddetta principessa nubiana delle proteste di Khartoum. E chi ci segue ricorderà che intervistammo proprio una giovane manifestante fotografa, ma che in realtà scattò quella foto col telefonino, e quella foto divenne quella giovane donna abbigliata di bianco che si ergeva al di sopra della folla in Sudan, è diventato un vero e proprio simbolo di quella protesta che poi ha portato alla caduta di Omar al-Bashir, con tutte le conseguenze che tuttora noi a Nessun Luogo Lontano vi racconteremo. Francesca Recchia, cos'ha di specifico, di precipuo l'arte in zone di conflitto? È come se fosse un'arte estrema, no? Perché deve confrontarsi e raccontare, trarre ispirazione da momenti altamente drammatici. Ha un valore superiore rispetto all'arte in momenti di pace, secondo te? Well, visto che hai fatto riferimento al Sudan, sì. ti racconto del Ala Fatir, che è una graffitista proprio di Khartoum, che sì. è stata fra le organizzatrici della protesta e delle, tutta la rappresentazione visiva intorno alla protesta. Lei dice che l'arte come la rivoluzione sono forme d'amore, e quindi diciamo che l'amore in guerra o l'amore in pace è comunque sempre amore, con tutte le sfide e le complicazioni che uno si trova ad affrontare a seconda delle diverse contingenze. Sì. Allora, intanto abbiamo un ascoltatore che, come te, non so esattamente in che ambito, ma lavora con l'arte. Claudio da Verona. Opero nell'arte da decenni, ma non ho mai riposto nell'arte se non il fatto che possa essere lo specchio della società, dell'ambiente culturale o del momento storico in cui essa si manifesta. Quello che è fondamentale nelle fasi storiche sono le rivoluzioni, le manifestazioni dei popoli o l'agire di certi personaggi. Claudio, in questo modo, mi sembra, Francesca, riconduca all'arte il potere della rappresentazione, non quello della rivoluzione. E quindi forse qualche punto fermo lo stiamo mettendo. Per, come dire, strecciare al massimo, no, questo concetto, io citavo all'inizio della trasmissione l'endorsement di alcuni personaggi artistici o particolarmente noti durante le elezioni americane. Lì forse è arte, come dire, in senso lato. Però lì c'è un impegno forte anche in prima linea e anche una certa dose di opportunismo. Quanto secondo te nei quadranti che abbiamo raccontato c'è la volontà da parte di artisti di sfruttare il movimento di piazza, la rivoluzione, per darsi visibilità? Ci sarebbe un termine da usare, ma è poco radiofonico, quindi non lo useremo. Guarda, direi che ci sono... Non vorrei chiudere con una nota pessimista, quindi direi che esiste... Tecnicamente chi approfitta di questo è che diciamo, trae fama, notorietà e valore monetario dalle rivoluzioni e le trasforma in un'opportunità di carriera. E questo esiste. Esiste però anche chi in maniera spontanea e organica, dal di dentro dei movimenti di protesta, usa la propria arte come mezzo di espressione, come mezzo di comunicazione dei sentimenti, dello spirito, delle idee del movimento stesso. Quindi direi che ci sono tutte e due e non chiuderei necessariamente con parole poco radiofoniche, ecco. Con questo tono molto nuanced, ti ringraziamo Francesca, lo ricordo, Francesca Recchia, direttore dell'Istituto Afghano per l'Arte e l'Architettura, fondatore di The Police Project. Francesca, grazie mille, alla prossima, buon lavoro e ci sentiamo presto. Grazie. Allora, intanto alcuni ascoltatori continuano a mandare messaggi su quella che è uno dei temi dell'attualità, non esattamente internazionale, ma è piuttosto il coronavirus. Allora vi rimando chiaramente ad altri programmi. Voi sapete che l'abbiamo trattato in chiave strettamente geopolitica e di relazioni internazionali. Gli altri programmi della radio e soprattutto quelli di salute, e soprattutto Nicoletta Carbone, vi rimando a lei per quelle che sono tutte le domande, come dire, di servizio. Noi non abbiamo la competenza e cerchiamo di fare solo quelle poche cose che speriamo ci riescano bene, cioè raccontarvi ogni giorno quello che accade al di fuori dei confini internazionali, italiani, scusate. Allora, abbiamo quasi 40 secondi, facciamo sentire un pezzettino, giusto per spostarci, di quella canzone sudamericana, si chiama El Derecho de Vivir en Paz. È una canzone che richiama ai tempi di Pinochet, ma recentemente è emersa come colonna sonora della piazza, quella piazza contro Sebastián Piñera, quella piazza che ha rivisto i carri armati scendere in piazza appunto in Cile, e ha recuperato, quasi fosse modernariato musicale, quel vecchio canto di battaglia. Sentite qui. Il diritto di vivere in pace, così anche la prima linea delle manifestazioni di piazza in Cile hanno recuperato iconografie, colonne sonore, il tutto per far svolgere all'arte quella funzione che non è sua, ma che abbiamo scoperto esiste, di grande grimaldello contro il potere. Quel potere che di solito Valeria Bernardi dice una cosa. E che è il preludio ai titoli di coda. E ringraziamenti a voi che siete stati all'ascolto, a tutta la squadra di Nessun Luogo. L'appuntamento è per domani, ore 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.